si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Buona domenica, quando sono le 8:33 minuti riprende la diretta su Radio 24, il buongiorno e il weekend si può fare, siamo insieme fino alle 10 oggi. E vi aspettiamo naturalmente per stare insieme a noi, per intervenire, per commentare. Ripercorreremo tra poco alcune tra le notizie principali della settimana, sempre a caccia di buone notizie, di soluzioni ai nostri principali problemi. 800 24 0024, questa è la mission, si può dire mission, sì, sì. Tu non dovresti, perché hai una giustissima battaglia contro le parole inglesi, però accorciato in questo caso, missione, mission, dai, ci può stare. Ah, tu dici che è un'elisione, semplicemente, non è una parola anglofona. Dillo in italiano. Mi ero preparato una risposta alla domanda che mi fai sempre, Milano Monterosa, direi foschia, volevo proprio dire foschia, ci tenevo stamattina a iniziare con foschia. Guarda, quindi non si sa. Si può dire una di quelle giornate che poi potrebbero andare sia nella direzione di pioggia, vento, grandi intemperie, oppure magari tra un'ora esce fuori un sole meraviglioso. Esattamente, una bellissima foschia. Ma che belle banalità. Esatto. Ieri c'è stato il Family Day, l'ho ascoltato parola per parola. Ci tenevo perché speravo che uscissero delle argomentazioni. Ho scritto una lunga lettera ai parlamentari che andranno a votare per la Cirinnà settimana prossima, e quindi ci tenevo. E devo ammettere che sono rimasto deluso, mi spiace molto, c'era tanta gente al Circo Massimo, sono rimasto deluso perché non ho sentito neanche un'argomentazione che fosse sulla questione del matrimonio, su perché non bisognerebbe far passare questa legge, se non un continuo urlo contro l'utero in affitto che, come tutti sappiamo, non c'entra niente con questa legge, e urla del tipo il prezzo sui pancioni, giù le mani dai bambini e qualche Ave Maria. Non penso sia questo il modo di discutere, che invece la discussione sarebbe molto interessante. Erano o non erano 2 milioni? Non erano sicuramente 2 milioni, perché sappiamo che, insomma, qualcuno ha contato i metri quadri della piazza, esatto. Circa 100-150 mila. A esagerare, quindi per essere stati 2 milioni avrebbe dovuto essere una quindicina per metro quadro. Ma non è importante, a me non interessa Cardinale la lotta delle Ruini, cifre. Cardinale Ruini, lucidissimo Cardinale Ruini, 84enne, intervistato credo dal Corriere, dice 2 milioni, ma mi sembrano un po' tanti. E sì, se lo dice stato, lui. È stato Gandolfini che durante la manifestazione a un certo punto ha detto, parlando con lui, siamo in 2 milioni. È una follia. In una giornata strapiena di menzogne, aggiungere quella non bello. Però non ne faccio una guerra di cifre, per me va benissimo anche che fosse 2 milioni in piazza, anzi che mi sembra più preoccupante per le cose che si sono dette. Ne parleremo tra poco, dopo le 9, nella nostra carrellata delle notizie della settimana. Adesso cominciamo invece su un altro argomento, cari ascoltatori, però 800 24 00 24, cominciate a digitare il numero verde perché cerchiamo un personaggio della settimana, qualcuno che abbia una notizia che è successa negli ultimi 7 giorni. E il primo indizio che vi vado a dare è questo: è una notizia che proprio nasce dall'amore. Una notizia che nasce dall'amore, quindi insomma è un perfetto per la domenica. Perfetto per la domenica e anche per si può fare. Aguzzate l'ingegno. Chi indovinerà per primo si porta a casa 2 biglietti del catalogo della mostra, la bellissima mostra di Gauguin a Milano, al MUDEC di Milano, organizzata dal gruppo 24 ore. 800 24 00 24. Ricominciamo con le notizie della settimana. Vai! Allora, settimana che si è chiusa con l'atteso vertice tra Renzi e Angela Merkel a Berlino. Adesso faremo i conti, vedrete, vado lì, gliele canto 4, ma non c'è nessun intento bellicoso, eccetera, eccetera. Queste erano le premesse di un vertice che aveva al centro soprattutto la questione, della flessibilità nei conti pubblici, che sta a cuore all'Italia, che insomma, rivendica con Renzi di aver fatto le riforme e quindi di potersi meritare un po' più di flessibilità sui conti. L'altro tema importante era quello dei migranti. L'Italia e la Germania da questo punto di vista sono abbastanza accomunate in Europa, perché entrambe sono contrarie alla sospensione di Schengen, cioè insomma a reintrodurre controlli e divieti di transito alle frontiere. l'Italia è contraria perché, insomma, da noi, lo sapete, siamo un paese di frontiera, quindi se si chiudono le frontiere tra l'Italia e il resto dei paesi è un problema per noi. Sì, credo che ci sia anche una questione concettuale del fatto che Schengen, se no la comunità europea diventa solamente una comunità economica. Esatto, sì, sarebbe un ritorno indietro. Facciamo noi un piccolo ritorno indietro alle dichiarazioni che hanno preceduto questo vertice. Non sentiamo né Renzi né la Merkel, perché poi quelle dichiarazioni lo avete sentito un po' da tutte le parti. Risentiamo invece il ministro interno Alfano, per esempio, che l'Italia chiede di rivedere gli accordi di Dublino. Io vi ricordo semplicemente cosa sono gli accordi di Dublino: sono quegli accordi che prevedono che lo Stato che deve verificare sul diritto d'asilo del richiedente asilo è lo Stato nel quale il profugo, l'aspirante profugo, diciamo così, ammette piede per la prima volta, quindi nel nostro caso l'Italia, oppure dove ci sono i parenti nel resto d'Europa, però quasi sempre è il luogo dove si sbarca. E questo, dice Alfano, è un accordo vecchio che va superato. Noi vogliamo rivedere Dublino, perché Dublino è una foto ingiallita di un'Europa e di una gestione delle migrazioni di un continente che non esiste più, perché non c'è più quella modalità di migrazione di 20 anni fa. E allora bisogna rivedere Dublino, stabilire un meccanismo di redistribuzione automatico, per cui una volta che i migranti entrano in un paese europeo, in qualunque paese entrino, devono essere redistribuiti secondo quote obbligatorie e al tempo stesso attivare un efficace meccanismo di rimpatri degli irregolari. Schengen è finito. Schengen è finito. Se la Svezia con un governo di sinistra oggi annuncia voli speciali per espellere 80.000 clandestini, voi capite che questa immigrazione, questa Europa hanno fallito. Questi era Salvini, la dichiarazione relativa, diciamo, alla fine di Schengen. Alla fine di Schengen, perché al funerale di Schengen. Oggettivamente, ai confini tra la Svezia, la Danimarca e la Germania, qualche cosa sta accadendo. Chiudiamo la carrellata con Di Battista. A me Renzi, lo dico veramente con il massimo rispetto, mi sembra come Fantozzi, che prima di entrare nell'ufficio del mega direttore galattico dice oggi mi sente, poi appena entra il mega direttore galattico gli dice si segga, ma la sedia non c'è, seduto, e si siede. Rientriamo, Giovanotti, l'ascolteresti, insomma, poi con questo ritmo la domenica mattina ci sveglia. Stavo ballicchiando e giustamente adesso mi riderguiva con lo sguardo. No, però dobbiamo andare a Sanremo, dove non solo si svolgerà il festival tra quando? Una decina di giorni, credo, una settimana, sì, non so esattamente. Un po' di più, credo. Un po' di più, e dove invece oggi viene inaugurata una nuova moschea, un centro di preghiera per i cittadini di religione islamica. Un fatto che, come sapete, insomma, fa sempre discutere, perché c'è questa divisione tra chi dice giusto, perché ormai gli islamici, i musulmani in Italia sono sempre di più ed è giusto che abbiano i loro centri di preghiera, e chi invece mostra preoccupazioni, perché a volte questi centri di preghiera diventano dei luoghi di aggregazione eccessiva all'interno delle città, o c'è paura per la sicurezza perché in alcuni casi si sono dimostrati dei collegamenti tra il terrorismo di matrice islamica, che insomma ha colpito molte volte l'Europa e non solo, e anche questi centri culturali, centri di preghiera. Noi abbiamo convocato Roberto Hamza Piccardo. Buongiorno. Grazie per la convocazione, buongiorno a voi. Buongiorno. Buona domenica. Hamza Piccardo, è una convocazione perché è domenica mattina, è troppo presto. Senza convocazione uno non è che viene così da volontario. Bene, bene. membro del Lukoil, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, è un italiano convertito all'Islam tanti anni fa, è uno dei principali traduttori tra l'altro del Corano in Italia, ma soprattutto è responsabile del centro islamico di Imperia e insomma, tra i propulsori della nascita di questo nuovo centro di preghiera. Abbiamo letto sui giornali che ci sono state un po' di polemiche da parte di alcuni residenti che magari non sono del tutto soddisfatti per il luogo dove è stato deciso di fare questa moschea. Cioè, glielo chiedo, ci sono state delle polemiche anche questa volta per la nascita di questa moschea? Ma certo, c'è sempre qualcuno che ha bisogno di visibilità su qualsiasi cosa, grazie a Dio marginali e residuali, direi. La comunità islamica Sanremo è organizzata dal 96, quindi sono 20 anni che aveva un suo luogo di aggregazione. Sì. Questo qua è un nuovo luogo di aggregazione, migliore, più bello, più ben fatto, per cui non c'è problema, non c'è nessun problema con la città. In via Galilei siamo, è vero? Sì. Il nuovo centro di preghiera. 325, sì. Circa 300, al borgo di Sanremo. Circa 300 metri quadri, leggo, e diciamo ristrutturati, e quindi diciamo aperto questo centro culturale di preghiera con le sottoscrizioni della comunità islamica locale. Quindi tutti diciamo soldi. Non ci sono finanziamenti che arrivano da sauditi o da cose, perché anche questa è una cosa che preoccupa a volte, no? Ma no. Ma voglio dire, come se si preoccupassero in Uganda se arrivano dei finanziamenti dai comboniani per fare una chiesa o fare una no, ma quello che preoccupa, sì, che tra l'altro è fatto anche più semplice, come sarebbe come preoccuparsi se per una chiesa viene fatta un'offerta da qualcuno che è mafioso, e questo avviene quotidianamente ma nessuno se ne preoccupa. No, ma quello che preoccupa in alcuni casi è il legame con l'Arabia Saudita, che è il centro diciamo dell'integralismo sunnita. L'Arabia Saudita non scuce un barile. A voi non vi scuce nulla. Beh, no, è giusto paesi, per sapere. Altri paesi hanno dato degli aiuti negli anni scorsi, adesso non stanno dando niente, probabilmente in crisi per il prezzo basso del petrolio, ma quello che posso dire con assoluta sicurezza è che questi aiuti non hanno mai in nessuna maniera determinato l'inclinazione o comunque l'ideologia o comunque la predicazione dell'associazione che è stata aiutata. Sì. Questo posso garantire per conoscenza diretta. Facciamo una piccola pausa per il traffico, credo un minuto, poco più, poi prego. Torniamo a collegarci con Anza Piccardo per parlare della nuova moschea di Sanremo. Tra l'altro c'è stato anche un allarme diciamo preventivo legato proprio al Festival di Sanremo per la grande aggregazione di persone che ci saranno, VIP, meno VIP, eccetera, proprio legato anche ai recenti attentati terroristici. Quindi diciamo vogliamo capire un po' come si rischiaria, si respira lì in Liguria. Però torniamo tra un attimo, un secondo. Eccoci di nuovo qua con Roberto Anza Piccardo per parlare della nuova moschea di Sanremo. Avevate invitato anche il vescovo all'apertura, il vescovo Suetta. Verrà stamattina presto per altri impegni, verrà a salutarci, verrà. Quindi insomma un bel segno di incontro tra religioni, e questo ci fa piacere, perché dove si... Tra le persone, le religioni stanno ferme, sono le persone che si incontrano, grazie a Dio, si conoscono, si riconoscono nell'umanità condivisa e sperano di fare il bene insieme. Però insomma questo tema è difficile eluderlo, no? Delle paure che hanno le persone, dei rischi legati alla sicurezza, perché in alcuni casi, in alcune indagini, sono venuti fuori legami tra il terrorismo di matrice islamica e alcuni di questi centri di preghiera, non necessariamente in Italia ma anche in Europa. Questa è una cosa che vi impensierisce o no? Ma guardi, le relazioni dei servizi di sicurezza ormai da anni dicono che se c'è una devianza, e purtroppo c'è una devianza anche criminale, terrorista, all'interno della comunità islamica, non si annida nelle moschee, che sono il luogo più controllato d'Italia. Quindi è tutto un reclutamento, un addottrinamento che viene fatto online a circuiti completamente estranei alle moschee, proprio perché le moschee sono invece un baluardo di legalità. Quindi di sicurezza per tutti. Diciamo, è un problema che in qualche modo non, secondo lei non si pone proprio? Non si pone proprio, anzi proprio è nostro interesse, oltre che obbligo morale, e religioso, sì, quello di vigilare sulla sicurezza di tutti. Sì, beh, questo sì. No, sicuramente le moschee sono dei luoghi, centri di preghiera, sono dei luoghi pubblici, quindi diciamo che sono dei luoghi più controllati. È evidente che se uno deve mettersi a cospirare, per cui chi vuole fare delle azioni negative sta, sì, ben alla larga dal luogo in cui potrebbe essere individuato. Però possono essere dei luoghi dove magari si annida un'area grigia di chi non compie azioni terroristiche, ma come abbiamo visto a volte fare a telecamere spente, interviste all'indomani di certi attentati, qualche frase un po' giustificazionista, magari questo... questo, ma evidentemente sì, ci sono persone disinformate o persone anche malvagie, perché per carità nessuna comunità ne è esente, e tuttavia non è l'associazione in sé con i luoghi che gestisce che abbia nessuna responsabilità su questo. Cioè, se in chiesa entra un mafioso, un assassino, un pedofilo, non è sicuramente responsabile il parroco. No. Questo è vero. Certo che no, è che a volte magari avvengono... Non parliamo dei parroci, per piacere, lasciamoli stare tranquilli. Dei? Dei parroci. L'ha detto lei, L'ha detto lei, parroco, non io. Senta, ma però... le volevo chiedere una cosa stupida, sì, forse, ma è un caso che decidete di aprire 10 giorni prima del Festival di Sanremo? No, nessun caso. In Italia succede sempre qualcosa, c'è sempre un'elezione da fare, c'è sempre un evento, grazie a Dio, perché il paese è vivo. No, noi apriamo perché siamo arrivati al momento in cui tutto è pronto, si deve aprire. E non c'è anche una giusta intenzione, è un momento particolare per Sanremo, tutti gli anni lo si sa, insomma, come arriva Natale per Sanremo, a Sanremo arriva il Festival della Canzone, quindi è una data che sapete dall'inizio dell'anno. Mi chiedevo se c'era anche un'intenzione che può essere anche un'intenzione ecumenica. Dovevamo, uno dice adesso che ci sono i riflettori. Dovevamo aprire prima. I lavori sono un po' ritardati e siamo arrivati a questa data. Perfetto. Allora, leggiamo tra le altre cose che anche in questa moschea è previsto un ingresso riservato alle donne, per le donne. Anche in questa moschea, quindi, le donne hanno un ingresso, diciamo, a parte e quindi uno spazio anche, sì, di preghiera. Nella ritualità islamica la preghiera viene fatta, sì, in questa maniera qua. Le donne sono poste in un matroneo, come è stato, come era nelle chiese sino a non molti anni fa, insomma, non molti decenni fa. Per cui anche c'è un ingresso riservato, ci sono i servizi per loro, e hanno la piena dignità nel rispetto di quella che è la tradizione rituale. Ma questa cosa, secondo lei, che viene giudicata da molti come un segno di arretratezza culturale prima che dal punto di vista religioso, cambierà mai? Ci sono spinte affinché ci sia una... Ma lei pensa che uno si possa fare la comunione senza fare la confessione prima? No, questa la so, questa la so anch'io. Ogni religione ha le sue regole. Sì, ma la domanda che io le ho fatto è se questa regola è una regola che non può essere vissuta da qualcuno anche all'interno della comunità come una regola di arretratezza culturale, perché no, è una regola che segrega le donne rispetto agli uomini. Non segrega nessuno, organizza. Non segrega nessuno, organizza. Dipende dai punti di vista, Piccardo. Ma lei non si sente mica segregato quando sta fermo davanti al semaforo rosso. È un paragone un po' azzardato. Io sono entrato in diverse moschee e anche durante i momenti di preghiera e vedere le donne da un lato nello spazio, diciamo, non centrale anche dal punto di vista fisico rispetto agli uomini, a me personalmente comunica un'idea di segregazione. Lei ha presente come viene fatta la preghiera islamica con la prosternazione? Le ho appena detto che mi è capitato di assistere, quindi allora, sì. Lei, voglio dire, avere una donna davanti che si prosterna potrebbe essere un elemento di disturbo per la concentrazione del credente, e quindi evidentemente si cerca di evitare questo. È una questione tecnica. Ah, quindi è una questione, certo, una questione tecnica logistica. Potrebbero essere messi entrambi a fianco, uno a fianco all'altro, cioè una esatto, divisione in mezzo alla moschea. Infatti adesso nelle moschee nuove si sta pensando, la moschea la progettanda. Sì. Moschea di Milano, dell'architetto che sta progettando, sì, ne abbiamo Rota, parlato, come no? Ecco, avrà una soluzione ben diversa da questa, sì, davanti. Vede che alla fine ci troviamo in un punto d'accordo. Ma come no? Ma infatti, tra l'altro, guardi, se c'è un programma che viene tacciato, un momento, uno spazio, diciamo, di informazione radiofonica, di essere sempre dalla parte vostra, dalla parte dei cittadini musulmani, siamo noi. Benvenuti. Perché benvenuti. Siamo assolutamente a favore dell'apertura di centri di preghiera, anzi, ci mancherebbe. Siamo ecumenici. Però poi siamo ecumenici, però ci piace anche di fare le domande e di capire, che io personalmente insisto. questo, trovo l'organizzazione attuale all'interno un po' delle moschee, e vabbè, non estendiamo il discorso perché è una questione anche culturale legittima nel mondo islamico, che, in cui le donne hanno un ruolo che a volte è da mettere un po', cioè, personalmente, siamo in discussione. Siamo strenuamente impegnati perché le nostre sorelle possono avere la piena dignità anche da questo punto di vista. Però mi faccia finire, perché proprio il fatto che voi vi troviate in Italia, quindi in un paese dove alcune di queste questioni culturali ci sono state e sono state superate, può essere uno stimolo. La domanda poi era questa in fondo, per voi, per fare dei passi in avanti, oppure questa differenza tra uomo e donna resterà insormontabile anche tra le comunità islamiche? Grazie a Dio la differenza c'è, rimarrà sempre insormontabile, però da un punto di vista, diciamo, della presenza nello spazio pubblico, eccetera, il nostro lavoro come musulmani italiani, come musulmani in Italia, è proprio nella direzione di cui lei parla. Mm. E il sermone in che lingua viene fatto nella moschea di Sanremo, per esempio? Nelle due lingue. Quindi sia in italiano che in arabo? Quando vado io solo in italiano. Ok, quando invece va un altro che non sa l'italiano? C'è la comunità è al 99% arabofona. Sì. Poi ci sono albanesi, ci sono anche altri, però... Ma lei pensa che sia giusto farlo in italiano? Io penso di sì, assolutamente sì, perché anch'io. Il sermone non fa parte del rito, fa parte dell'insegnamento. L'insegnamento deve essere compreso nella lingua maggiormente parlata dalla comunità. Quindi si dice che il 90% sono arabofoni. Però capiscono l'italiano. E questo è importante per tanti aspetti, e soprattutto principalmente per un motivo di integrazione. Certo. Soprattutto i loro figli sono ormai italiani a tutti gli effetti. Va bene, un grande in bocca al lupo, saluti e abbracci. Grazie anche a voi, buon lavoro. Grazie mille, buona domenica. Arrivederci. Allora, questa è la situazione a Sanremo, dove oggi inaugura una nuova moschea. E abbiamo cercato di così mettere piede anche noi all'interno della moschea per capire come e perché si vive e si prega all'interno delle moschee. Carmen da Padova, buongiorno all'800 24 0024. Su cosa voleva intervenire? Buongiorno. Buongiorno. Ci dica su che cosa voleva intervenire? Sul gioco. Benissimo. Chi è il personaggio? La signora Meloni. Giorgia Meloni, perché? Perché ha annunciato che è in attesa. È in attesa. Che tra l'altro, se possiamo dire, è abbastanza interessante, perché uno va al Family Day, dove giustamente si difende la famiglia tradizionale, e annuncia davanti a tutti di essere incinta, non da sposata, quindi diciamo di aver fatto, di aver fatto sesso prima del matrimonio. Mamma e forse mia, non è la giornata ideale. Come ragionate, per me non c'è nessun problema, però mi interessava anche per lei non c'è nessun problema. Mi interessava che in un momento come quello. Va bene. Comunque, Carmen, questa era solo una battuta di Carlo. Devo dare la linea a un altro ascoltatore perché voglio far parlare tutti. Nilde da provincia di Reggio Emilia, grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. Anch'io volevo partecipare al gioco, sì. E anche se esattamente non è un personaggio, bensì ho pensato a un cane, a quel cane che ha ritrovato la via del ritorno, sì. Dopo essersi allontanato dal padrone, e dopo due mesi, da Salerno mi pare fino al Comasco. Io questa notizia non l'avevo vista, non era questo il personaggio, grazie Nilde, non era neanche la Meloni, naturalmente, ci siamo fatti prendere la mano dalla polemica, ma non era Giorgia Meloni, il nostro personaggio ha una notizia che nasce dall'amore. 800 24 00 24, a dopo il GR, ciao. Si può fare cronache da un paese migliore. Sunday, Monday. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Quando sono le 9:08 quasi della domenica mattina, riprendiamo la nostra carrellata sulle notizie della settimana, sempre diciamo a caccia di buone notizie. Allora, è arrivato il momento di parlare del tema unioni civili, ma insomma, le immagini del Family Day le avete davanti agli occhi, le dichiarazioni le avete appena sentite nel giornale radio, quindi diciamo la cronaca stretta la saltiamo, facciamo un piccolo passo indietro. indietro. Vi facciamo risentire una dichiarazione che non molti forse si sarebbero aspettati, la dichiarazione di voto favorevole al DDL Cirinnà da parte di insomma un uomo che ha avuto un percorso politico particolare, ma che insomma negli ultimi tempi non era certo ascrivibile al mondo dei diritti, dei progressisti o della sinistra. Sto aspettando Bondi. Che fai il nome, esatto. Sandro Bondi. Io ho letto anche i commenti sui social network, tutti che dicono: beh, in effetti bisogna dire che la sua argomentazione non fa una piega. Questo è quello che lo sono state. Sono state parole bellissime. Improvvisamente ha fatto una sorta di omelia a favore. Lui che resta, e lo dice anche in questa dichiarazione, comunque un uomo fedele alla Chiesa. Però, sentiamo. Questo disegno di legge, secondo me, non solo non è incostituzionale, ma della Costituzione osserva la lettera e lo spirito più profondo. Il riconoscimento delle unioni civili, infatti, abbatte finalmente ogni discriminazione nei confronti dei cittadini italiani. L'approvazione di questa legge renderà finalmente l'Italia un paese più moderno e più civile. Avremo uno Stato più laico, ma proprio per questo le persone potranno testimoniare più liberamente e autonomamente i propri valori religiosi e culturali. Vabbè, vogliamo sentirlo anche il Cardinal Bagnasco, lo sentiamo, perché insomma in fondo è lui il titolare un po' dell'interpretazione del pensiero della Chiesa. Pensavo dicessi in fondo oggi è pur sempre domenica mattina. Anche. E quindi diciamo è quello un po' più titolato di tutti a parlare sulla posizione della Chiesa. La Chiesa, che è abbastanza dirimente in questa questione qua. Sentiamo. È bene ricordare che i padri costituenti ci hanno consegnato un tesoro preciso che tutti dobbiamo apprezzare e custodire come il patrimonio più caro e prezioso, coscienti che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione. Bagnasco è a favore della... Allora non avete capito quello che ha detto. Bagnasco è a favore delle cose civili. Bisogna interpretare come i Vangeli e tutte le cose che riguardano la Chiesa vanno interpretate. Quando uno dice io sono contro le unioni civili, però interpretando si capisce che è a favore, hai capito? Uno dei due era Bagnasco, uno dei due era Benigni. In realtà tu giustamente dicevi è dirimente la posizione della Chiesa. Ricordiamo che in realtà più che dire è giustissimo, la Chiesa e tutti i suoi rappresentanti hanno tutto il diritto di dire come la pensano. Rimane che lo Stato è laico e quindi i nostri parlamentari giurano sulla Costituzione, non sulla Bibbia. Questo è fondamentale, perché possono esserci anche solamente un cittadino italiano che non crede in Dio o che non è cattolico e che quindi non è che può subire il regolamento della Chiesa. La Chiesa può farsi tutti i regolamenti che vuole, nessuno sta chiedendo alla Chiesa di sposare le coppie omosessuali, lo Stato è un'altra cosa, è di permettere. Poi uno da cattolico può decidere di non sposarsi nonostante sia omosessuale. La cosa che mi sembrava interessante è che lo testimonia anche la prima pagina di Avvenire di oggi, dove c'è il titolo Buon diritto, viva la famiglia ma buon diritto, che vuol dire fate questa legge, fatela bene, non stravolgete il diritto matrimoniale, però è più possibilista e fa più concessioni rispetto a quello che è stato detto ieri da Gandolfini, che invece questa legge va rifiutata e respinta tutta. Quindi diciamo che anche la Chiesa ha una posizione più, come dire, possiamo dirlo, più di apertura rispetto a quello che si è visto ieri in piazza Family Day. Questo credo che sia un dato di fatto, poi ognuno ci fa quello che gli pare. 800 24 00 24, è il momento di sentire di nuovo gli ascoltatori. Abbiamo chi abbiamo? Paola da Milano, buongiorno. No, non ce l'abbiamo, Paola è caduta. E allora Irene da Marina di Massa, buongiorno. Irene, buongiorno. Senta, io la prima volta che telefono la butto lì, non lo so. la butti? La butto, penso che sia quella signora che ha avuto la bambina nella stalla. Ma stiamo parlando di questa settimana o di 2016 anni fa? Non è la settimana quella lì. questa settimana. Sì, caro, non fare battute che l'ascoltatrice non capisce, poverina, perché è emozionata. Chiedo scusa, che telefono. Ma io sono felicissimo invece che abbia chiamato e che ci abbia dato questa notizia. Facevo una battuta, chiedevo se si stava parlando della di Gesù. Esatto, della nascita di Gesù e quindi di una notizia di 2016 anni fa, per questo. No, è la battuta sua, sì. E le chiedo scusa. Mi ha emozionato anche a me quando l'ho sentito, ho detto meno male è nato Gesù bambino in una È un nuovo Gesù, è un nuovo Gesù, perché era un'ottima notizia. La notizia a cui si riferisce la signora, ce la specifichi un attimo? Ce la chiarisca un attimo? Cioè, ce la ricordi? Ascolti, io tramite mio marito, perché l'ha vista anche lui e io ho sentito qualcosa alla radio, ecco, mi ha detto appunto che è nata lì, che erano poveri, dormivano anche lì e che è stata assistita dai carabinieri. Esatto, quindi credo che si riferisca alla notizia avvenuta a Roma, a dove Roma. Una Madonna è stata aiutata a partorire e in condizioni insomma di estrema povertà all'interno, insomma, di forse addirittura di una stalla, così è stato scritto. Però signora, non era questa la notizia, non era questo il personaggio. Ma ci chiami tranquillamente, non sia timida, è stata bravissima e siamo felicissimi di aver raccontato questa storia della donna che ha partorito in una stalla a Tor di Valle. Per amore era assolutamente giusto. Sì, Carlo, adesso dai un altro indizio, se aiutiamo gli ascoltatori. Allora do un altro indizio e dico che questa notizia, la notizia legata al personaggio che stiamo cercando, ha spopolato nei social network in questa settimana. Quindi è una notizia che nasce dall'amore ma che ha spopolato sui social network, quindi aguzzate ancora una volta l'ingegno all'800 24 00 24, vi aspettiamo. Abbiamo il tempo ancora di sentire forse Mimma dalla provincia di Milano. Buongiorno Mimma. Buongiorno, no, io volevo solo fare il mio commento sul Family Day. Ecco, sì, è prego. Abbastanza singolare, per me sbagliato, che si faccia una manifestazione per negare dei diritti a delle altre persone, non per avere dei diritti, ma per negare dei diritti ad altre persone, i quali diritti poi non danneggerebbero assolutamente le altre famiglie. Beh, insomma, loro, gli organizzatori della manifestazione, cioè alcune voci che abbiamo sentito dicono noi non siamo qui contro nessuno, però è inevitabile invece pensare, certo, come dice lei, che è stata fatta proprio alla vigilia del voto sulla DDL Cirinnà. Quindi anche se poi si minaccia dicendo ricorderanno questi parlamentari che noi non li voteremo, mentre il Parlamento dovrebbe essere laico, perché per credenti, non credenti e diversamente credenti. Grazie Mimma, grazie. Voleva concludere? Concluda. Ecco, volevo dire che niente, che le leggi vanno fatte per tutti, non per i cattolici o per una parte piuttosto che va bene, un'altra. Va bene, chiarissimo. Grazie mille. Condivido ovviamente totalmente. E la cosa che spiace di più è che in realtà io almeno personalmente ho ascoltato tutto il Family Day sperando di trovare, di ascoltare delle argomentazioni per cui fosse pericoloso votare sia questa legge, e invece, ripeto, sono state dette solamente questioni che non c'entrano con la legge, come il prezzo sui bambini, acquistare i bambini, un sacco di follie che non hanno nulla a che fare con la legge Cirinnà. Torniamo tra pochissimo dopo il traffico. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga. Viral mess turned dreams into an empire, self-made success, now she rolls with Rockefellers. Survival of the richest, the city's arms until the fall, they're Monaco and Hampton's bound, but we don't feel like outsiders at all. We are the new Americana, high on legal marijuana, raised on Biggie and Nirvana. We are the new Americana. E vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sul sito di Radio 24, la pagina del programma Si può fare, c'è per ogni puntata la playlist con tutte, insomma, le canzoni che abbiamo scelto per accompagnare gli argomenti delle puntate. Facciamo una puntata proprio in America, per una notizia che viene dall'America, ed è questa: New York, la svolta del sindaco De Blasio, sì ai cellulari, telefoni cellulari in classe per le scuole pubbliche della città. Per questioni di sicurezza i genitori possono raggiungere i figli. Sapete che New York, insomma, è una città dove la questione della sicurezza è sempre all'ordine del giorno. Si può fare un interrogativo, ci domandiamo, ma si può fare? È una cosa che vorremmo che succedesse anche in Italia, dove i cellulari restano vietati, almeno formalmente, nelle scuole. Poi quello che succede nelle classi è un po' diverso. Ne parliamo di questo, ma anche di tanto altro, con Marco Balzano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È un piacere ritrovare per fare due chiacchiere con lui domenica mattina, a commentare un po' di notizie. Scrittore, vincitore con L'ultimo arrivato, l'ultimo premio Campiello, e anche insegnante, Marco, a Milano, vero? Vero, verissimo. Allora, ecco, insomma, partiamo qui da questa notizia che riguarda un po' il mondo della scuola. È giusta questa cosa, secondo te, che è stata fatta a New York, oppure c'è questa ansia eccessiva da parte dei genitori di dover sempre raggiungere i figli? Chissà come facevano prima i genitori quando non c'erano Lo sappiamo, perché tutti noi siamo stati figli senza cellulari. Ma noi eravamo figli, non eravamo genitori, però. E quindi chissà come facevano i nostri genitori, questa è la domanda. Non so, insomma, da una parte è comprensibile, visto tutto quello che sta succedendo, che avvengano, che ci siano queste richieste. Non ho idea, non vorrei che... Insomma, ma cosa intendi? Tutto quello che sta succedendo, nel senso, parliamo di attentati all'interno del college? Esatto. Insomma, se si sentono queste notizie di continuo, è normale che ci siano psicosi più o meno forti, allarmismi, anche tentativi di sentirsi più sicuri. Quindi bisogna distinguere un po' se questi provvedimenti vogliono cercare di rispondere a un bisogno effettivo di sicurezza. Allora probabilmente mi verrebbe da considerare che si dovrebbe lavorare più sulla sicurezza dell'edificio scolastico, più che sulla possibilità di avvertire qualcuno che è già arrivato in classe in caso di pericolo. Cioè, forse invece che ammettere anche i telefonini nelle scuole, bisognerebbe vietare le pistole. Potrebbe aiutare questo. Di questo mi sembra talmente ovvio da palissiano che non ce ne sarebbe. Purtroppo non parlarne, però invece bisogna continuare a parlarne. Fa bene. Assolutamente, Obama, assolutamente. Continuare a parlarne. È più facile invece, probabilmente, fare il contrario per un sindaco come De Blasio, dire ok, portate il cellulare, piuttosto che fare una battaglia contro le armi, sappiamo, le lobby. Mi pare di sì, per questo la battaglia in sé mi sembra una battaglia di retroguardia e poco interessante in partenza. Però altro, ecco, se si vuole parlare della questione educativa, per cui io spiego la lezione, tu puoi stare al cellulare in classe. Però allora ci sono degli elementi, adesso poi parliamo anche di cosa vuol dire stare col cellulare magari in classe, se aiuta, perché secondo te, anche questa è una domanda che mi piace farti. I cellulari, gli smartphone, in generale la possibilità di accedere a tante informazioni sul web, aiutano la crescita dei ragazzi, allargando un po' il quadro del discorso adesso, no? Oppure tutte queste distrazioni, che idea ti sei fatto avendo sotto gli occhi tutti i giorni tanti ragazzi che utilizzano ovviamente gli smartphone e che sono con te alla prova scolastica, no? Quella più difficile forse. Ma guarda, secondo me il tutto sta nell'impostare un rapporto di grande maturità, e quindi di responsabilizzare lo studente. Una volta che tenti di fare questo, le cose generalmente, almeno per la mia esperienza, ma insomma penso di parlare anche più in generale, funzionano. Dobbiamo fare una ricerca, dobbiamo trovarci un'informazione e tiriamoli fuori sti telefoni, usiamoli e cerchiamo di cavarne quello che qualcosa si può. Di utile. Certo. Dobbiamo fare la verifica, abbiamo una bellissima scatola delle scarpe super tecnologica, buttiamoli tutti qui dentro. Esatto, ma scusa, buttiamoli tutti qui dentro e facciamoci questo compito, perché è più onesto e giusto fare così. Certo, ma qual è la legge in Italia sui telefonini? Nel senso che a scuola in Italia si possono portare i telefonini o no? Guarda, se mi chiedi il codice, la legge, io non... No, allora parliamo di prassi. La prassi generalmente e che ecco, ti so dire che ad esempio negli esami di Stato si passa, cioè il provvedimento è quello dell'annullamento della prova. Cioè, ve la dico io qual è la prassi. C'è Alessio che è il più preparato. Sì, la redazione in realtà ci aveva preparato dei bei fogli, bastava che giravi pagina 2, Carlo, e c'era scritto, perché la regola è il divieto. Ma io volevo sentirlo dall'ospite. Regolamentata principalmente dalla direttiva ministeriale numero 30 del 2007, che prevede sanzioni disciplinari per chi viene sorpreso a usare il telefonino durante le lezioni. Poi, diciamo, la prassi forse è un po' diversa, credo. Ma io sulle sanzioni disciplinari sì, questo, anche se non ho letto pagina 2, sì, senz'altro, senz'altro ci sono molto variabili, nel senso che poi alla fine c'è tutto un, diciamo così, un ti regoli in base al contesto, all'allievo, alla situazione, alle norme scolastiche, c'è tutta una gestione che poi alla fine è soggettiva sostanzialmente. Ma anche perché vorrebbe dire perquisire i ragazzi prima di ogni lezione, non mi sembra fattibile. Infatti, anche perché se questo vuol dire poi scaricare sui docenti l'ennesimo fardello per cui io devo trasformarmi in sempre più cose, tra cui anche nel poliziotto che perquisisce, francamente no. Quello che si fa generalmente è appunto impostare un rapporto di civile e seria maturità durante le lezioni. Te lo tieni perlomeno col silenzioso, non sul banco, non sotto al banco, ma nel giubbotto, durante il compito lo spegni e me lo consegni, è così. E nel cambio dell'ora, nell'intervallo, perché no, guarda, certo. E così ci capiamo. Per quello che ne hai capito tu, i ragazzi hanno capito che non bisogna andare solo su Wikipedia per informarsi e bisogna fare delle ricerche approfondite, oppure, perché viene un po' a tutti, no, di fare Wikipedia. Questo è un discorso ovviamente più complesso ed è decisamente più difficile far capire che gli strumenti a disposizione siano molti, e questo è il rischio un po' di una tecnologia rovesciata come un secchio d'acqua in testa. Bisogna imparare ad usarla, spesso anche noi docenti, anche molti docenti... È un po' il lavoro della scuola, sicuramente. Si appigliano lì, far capire che esistono altri siti, che puoi andare sull'Enciclopedia Britannica, sulla Treccani, sfruttare una gamma di link, più ampia, e una miniera di informazioni. È una cosa che si impara lentamente, che spesso non tutti i docenti hanno gli strumenti per insegnare, che spesso andrebbe insegnata prima di tutto. È questo che infatti volevamo arrivare un po' qui, perché la vera questione è che forse andrebbe insegnato l'uso del telefonino invece che far finta di niente e nascondersi con la testa sottoterra dicendo lasciatelo fuori dalla classe. Anche perché secondo me abbiamo tutti il telefonino in mano e dobbiamo anche, nel senso che sappiamo tutti, la domanda diciamo nozionistica ha un po' perso di valore perché abbiamo tutti il telefonino in mano e quindi io posso prendere il telefonino e sapere quando è che è avvenuto Canossa piuttosto che il trattato di Worms e vado e lo leggo. Però poi saperle usare queste informazioni è tutt'altro che semplice. L'esempio d'Alessio era molto preciso su Wikipedia, perché secondo me insegnare ai ragazzi per esempio che un copia e incolla di Wikipedia non è una cosa saggia, ti insegna anche nella vita, perché ci sono anche molti giornalisti che lo fanno ovviamente cascano in degli errori madornali, fanno le copie e incolla dove addirittura le persone riconoscono gli errori di stampa da Wikipedia, quindi proprio dici vabbè questa l'hai copiata, invece bisognerebbe impararla, io penso, questa cosa, o sbaglio? Questa è la vera scommessa, cioè ormai la questione non è tanto più non è più l'accesso alle informazioni e l'uso che fai dopo aver avuto accesso alle informazioni, la capacità di connettere, la capacità di connessione non è più tanto interessante per la connessione alla rete, quella sostanzialmente è arrivata, è connettere quello che hai trovato con quello che ti serve con la costruzione del tuo percorso. Giustissimo. Questo ovviamente è qualcosa di molto più difficile, è qualcosa per cui servono strumenti, tempo e per cui a livello di riforme scolastiche non servono solo grandi infornati di nuovi docenti, grandi numeri in genere, ma serve una visione, una visione forte, nella buona scuola. Mi sembra molto giusto. Aggiungo solo una cosa che riguarda ancora il tema dei cellulari in America, perché è una notizia che fa capire meglio di quello di cui stiamo parlando. Pensate che c'era un fiorente commercio di furgoni e di depositi di stoccaggio di cellulari all'ingresso delle scuole, che poteva costare versare un dollaro al giorno, fino a 150 euro l'anno per figlio. Ogni genitore spendeva per far stoccare i cellulari fuori delle scuole. Quindi diciamo il sindaco De Blasio ha voluto, diciamo, anche un po' stroncare questo, tanto per capire anche un po' la questione, che è molto meno filosofica e più prosaica di quello che stiamo dicendo noi. Però Marco, ti farà piacere forse sapere che questa settimana c'è stata un'altra bella notizia che riguarda la scuola italiana, perché la commissione ha stilato un rapporto su Erasmus Plus e dice che, insomma, gli studenti italiani che vanno a fare esperienza di lavoro per alcuni mesi all'estero sono tra i più apprezzati, e quindi siamo, insomma, la scuola italiana, lo diciamo ogni tanto noi, no? Qui si può fare, ma anche in altri spazi si dice, si critica molto, però poi alla fine, alla prova dei fatti, sembra che sia apprezzata, che funzioni. C'è questa consapevolezza da parte di chi ci lavora, come voi insegnanti, oppure ci illudiamo a volte di questo? Parlare degli insegnanti, diciamo così, come categoria nella loro generalità, essendo così tanti, è molto difficile. A volte c'è una certa consapevolezza, molte volte, forse la maggior parte delle volte, manca o perlomeno è debole e andrebbe rinforzata. Credo che questa debolezza sia figlia della trascuratezza politica, storico-politica verso la categoria dell'insegnante, specialmente della sua considerazione sociale negli ultimi decenni, e che sia anche un po' il frutto di una professione che non ha mai saputo connettersi e fare categoria, essere unita. Ecco, questo l'ha resa senz'altro più debole e forse per certi aspetti meno consapevole. Detto questo, la scuola italiana ha delle punte meravigliose. La scuola italiana sta in piedi perché è pienissima di gente che, nonostante le cose spesso non funzionino, gli strumenti manchino, il mattino si alza e ha una gran voglia di fare il proprio dovere e di trasmettere sapere. Quindi forse la scuola sicuramente sta in piedi per la capacità per la capacità dei docenti. Io di scuola ne ho cambiata una all'anno in tutta questa lunghissima esperienza di precariato, e la maggior parte delle persone che ho trovato sono persone assolutamente competenti e professionali. Forse sono i genitori degli alunni che devono ogni tanto avere un po' più di fiducia nella scuola, ma questa è solo una battuta. Senti Marco, non possiamo però non chiederti un commento da uomo di cultura sulla questione della settimana, le statue. Le benedette statue coperte per l'arrivo del presidente iraniano, un doveroso gesto di ospitalità, se invito a casa un vegano non gli faccio trovare la bistecca nel piatto, oppure una rinuncia ai nostri valori del progresso, del laicismo, della laicità, eccetera eccetera, come la vedi tu? Ma penso che sia, allora, il gesto, il paragone con il vegano secondo me non regge. Ma assolutamente un gesto completamente improprio. Non mi ricordo se era Gramellini sulla stampa, però insomma era interessante quel commento, mi sento di sottoscriverlo, in cui se una donna va in Iran e deve giustamente mettersi il velo e si copre, se loro vengono qui e copriamo le statue, siamo un po' sempre noi a coprirci. Ecco, questa cosa qui mi sembra un commento efficace. No, la reputo ovviamente una cosa assolutamente impropria, che non andava fatta nella maniera più assoluta, perché il rispetto è qualcosa di molto più ampio, di molto più profondo che una coperta su una statua. Condivido, soprattutto adesso è interessante capire chi sia stato, perché questa è la domanda del momento. Questa è la solita filippica italiana, per cui però è interessante che venga nessuno. Fatto qualcosa e nessuno sappia chi l'ha fatta, cioè chi sono le persone che sono andati a coprire, da chi è partito l'ordine. Però voglio ancora rilanciare questa cosa, no? Non è invece proprio il fatto che noi siamo in grado di rispettare tutti, di essere una società più tollerante rispetto a quello che succede per esempio in Iran, un fatto di cui dovremmo essere invece orgogliosi, contenti, e invece rafforzarla questa idea, anziché denigrarci, siccome loro non ci fanno velare, allora noi facciamo velare loro. Ma no, secondo me no, si copre qualcosa di cui ci si vergogna. Io non capisco di che cosa ci si debba vergognare, tanto più del nostro patrimonio artistico, ma no, secondo me è proprio qualcosa che non sta a monte, è talmente una reazione fuori luogo che secondo me non vale la pena parlarne. Qual è la nostra storia? quella siamo noi, non è una nudità pornografica. Questo assolutamente, certo. È la sensibilità dell'arte, il nostro patrimonio, ciò che di più bello abbiamo da mostrare. Non è un nudo, è arte. Sì. No, ma io sono d'accordo con te, sicuramente. Non c'è niente di volgare, non c'era niente di volgare da nascondere, non c'era niente di offensivo in nulla di tutto quello che è stato coperto. Ci mancherebbe, di cosa parliamo? In più c'è forse anche da chiedersi se siamo più realisti del re, nel senso che forse non era assolutamente necessario. Mi fate sentire come l'ha raccontata Crozza. Ce l'abbiamo? Sì, dai, che divertente. E oggi è arrivato il presidente dell'Iran, che proprio incarna il XXI secolo, lo rappresenta così tanto che oggi ci ha fatto coprire con degli scatoloni bianchi delle statue romane di 2000 anni fa, che sono copie di statue greche di 2600 anni fa, perché rappresentavano dei corpi nudi. Cioè praticamente la Venere Capitolina ce l'ha fatta diventare una scarpiera dell'Ikea. Quindi ricapitoliamo un attimo. Oggi un signore con un asciugamano in testa ci ha fatto coprire delle statue di 2000 anni fa perché si sentiva offeso da due zizze di marmo di 2600 anni fa. E va bene, questo era Crozza, giusto per riderci un po', fantastico, dice Balzano. E va bene. Nella ricostruzione di Crozza, appunto, come dicevate voi, varrebbe la pena capire se realmente siamo stati noi più realisti del re o ci sia stata una richiesta. Io questo non l'ho capito dalle informazioni che ho letto, sia stata una richiesta a monte. Io non sono nemmeno sicuro di quello, ecco. Ma secondo te per una cosa del genere chi il ministro dovrebbe essere ritenuto in qualche modo responsabile? Perché non c'è mai un responsabile? È il primo che ha detto non sono stato io, esatto, il ministro. Però se non sei stato tu, evidentemente è stato qualcuno della tua filiera che non ha fatto quello che avresti fatto tu. Quindi c'è un problema forse di responsabilità o no? Problema c'è sicuramente, però non chiedetemi come risolverlo. No. Io faccio l'insegnante, lo scrittore, come chi punire per chi ha messo il cartone bianco. Non lo sapremo mai. Grazie Marco Balzano, buona giornata, buona domenica. Grazie anche a voi. Arrivederci. Buona domenica. E come spesso capita a quest'ora io sto perdendo la voce. Che succede? Come te, scusa. Siete te Mentana che avete questo problema di voce. Grazie. Paragone straordinario. 800 24 00 24, cari ascoltatori, facciamo una breve pausa, tra poco torniamo con voi. Stiamo cercando un personaggio della settimana, tra l'altro la cui c'è una notizia che nasce da l'amore che ha spopolato sui social network, quindi mi raccomando, aguzzate un attimino gli smartphone a proposito di Wikipedia o di Google News e cercate. Si può fare cronache da un paese migliore. Cinzia da Roma, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, salve. Prego, tocca a lei, di cosa voleva parlare? Era per la notizia della settimana. Sì, chi è il personaggio? Dunque, forse è Michelle Hunziker, la sua ecografia in diretta? Ecografia in diretta di Michelle Hunziker? Sì, per accertare, per comunicare all'universo mondo che non attende il quarto figlio dal marito. Che non attende, io questa notizia devo dire la verità, me l'ero proprio persa, quindi capirà Cinzia che non è. Io l'ho vista che è successo? Ha detto non aspetto un quarto figlio. Questo... Cioè, prima si diceva aspetto un figlio, adesso si dice non aspetto un figlio. Beh, le nuove frontiere del come vogliamo chiamarlo? Gossip. Scusate se vi correggo, ma non l'ha solo detto con il suo medico curante, ginecologo specialista ed ecografo di ultima generazione. Sì. Ha fatto eseguire in diretta una ecografia per dimostrare che non c'è niente. Ma tutto ciò è andato in onda dove? Credo a Striscia la Notizia. Io non lo guardo perché questa cosa è arrivata tramite Facebook e altri social. Quindi giustamente la notizia l'ho letto tramite i social, sì. costernazione sui social dopo questa notizia incredibile, sì, che Michelle Hunziker non aspetta un figlio, è incredibile. Grazie Cinzia, sì, se non altro per averci ricordato questa notizia straordinaria. Mai più senza, mai più senza. Esatto. Ovviamente era... non era il personaggio che abbiamo scelto, ma grazie mille. Per la semplice ragione che non, almeno io che questa notizia non la conoscevo. L'avevo letta, l'avevo letta. Vabbè. Gianluigi da Viareggio, buongiorno. Adesso daremo un altro indizio, se non vi avvicinate, perché buongiorno, siamo lontani. Buongiorno, sì. Chiamo anch'io per la notizia. Prego. Io ho sentito, diciamo, di un filmato nel quale una scimmietta ha letteralmente adottato un piccolo cagnolino abbandonato appena nato. E quindi, parlando e pensando di amore, ho pensato che potesse essere quella. Ed è una notizia che è andata anche sui social network, naturalmente, sì. Immagino di sì, ma non era lui il personaggio. È un piccolo particolare, però, non so se può interessare. Sì. La scimmietta era maschio, non so se questo cambia qualcosa in questo periodo, però... Diciamo, questo può avere un può influire il dibattito sul Family Day, questo è possibile. Stai andando su quello? Questo è possibile, Gianluigi. Ma soprattutto, secondo me, invece può aprire un argomento più interessante, che è l'adozione per i single, al di là di maschi, femmine... Ah, così, ma la butti lì così. Sì. Senti, a questo punto però fammi aggiungere un altro indizio, perché il nostro personaggio ha una notizia che nasce dall'amore e che ha spopolato sui social network, sì, ma soprattutto il nostro personaggio ha il numero 10 nel cuore. 800 24 00 24. Dai ragazzi, ha il 10 nel cuore il nostro personaggio, vai. Allora, è un piacere dare il buongiorno e la buona domenica al direttore del Piccolo Teatro di Milano, Sergio Escobar. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, direttore. Allora, buongiorno. Insomma, non potevamo non celebrare anche noi questa notizia che ha fatto molto titolo sui giornali, perché il Piccolo Teatro di Milano siete riusciti a battere in abbonamenti l'Inter e il Milan separatamente, non messi insieme, insomma. Quindi il Piccolo batte San Siro 1-0. Di questi tempi, insomma, si parla molto di crisi del teatro, è un'ottima notizia. Sì, certo, è un'ottima notizia e non è certo un derby a tre, ovviamente, perché ognuno fa il suo mestiere. Certo, però il confronto ci sta, no, in qualche modo. L'intrattenimento, sì, facile del calcio, che non richiede grosso, diciamo, impegno anche mentale, che appassiona tutti da sempre, contro invece l'impegno alto a volte del teatro, in particolare il Piccolo, che ha un nome, una storia, una fama, no? Sì, sì, sì, ma credo che questi dati che voi avete ricordato, che hanno all'interno dei dati ancora più significativi, cioè la percentuale di giovani, di ventenni, sotto i 26 anni, che sono 35% degli abbonati, e salgono addirittura al 50% dei 300.000 spettatori complessivi nell'anno, vanno ben oltre i dati statistici e tecniche di marketing. Ma secondo me aprono uno spaccato interessante per superare alcuni luoghi comuni, sì, e anche un ragionamento del rapporto generazionale. Non voglio trasformare in un trattato di sociologia, ma ma è interessante, però interessante. In pillole, perché no? Perché no? In pillole, secondo me, il primo luogo comune da sfatarsi è che ci sia la cultura alta, e quindi difficile, e quindi noiosa, e quindi appartenenti a poco intellettuali, magari che portano occhiali con sei diottrie perché hanno consumato la vista su dei libri da quando avevano 6 anni, e invece lo stupido che va allo stadio. Non è così. Se giusto. Posso velocemente ricordare una risposta che diedi all'inizio del mio mandato al Piccolo, quando una giornalista mi chiese in buona fede, diceva: il teatro cosa vuole che possa significare adesso? Eravamo agli inizi del 2098, anzi, sì, di fronte al dilagare del computer, al dilagare della comunicazione veloce, della cronaca, no? E io risposi: beh, guardi, io risposi perché interpretavo l'anima di quel teatro, speravo, almeno così è andata, almeno spero, risposi che sognavo uno spettatore, magari anche un giovane, perché no, che chiudesse il computer per chiedersi, per aver saputo anzi, che cosa andare a vedere, dove andare a vedere e perché andare a vedere uno spettacolo a teatro. Certo, c'è posto per tutti, c'è spazio per tutti, ognuno di questi elementi è uno strumento per... Guardi, le dico che il primo Last Minute, il piccolo teatro, l'ha venduto nel marzo del 2000, quindi 16 anni fa. Questo va detto, perché la presenza su internet, sui social, il sito del piccolo teatro sono all'avanguardia. Ci sono molti altri teatri che cercano di star dietro al piccolo teatro per come si è mosso benissimo su tutto ciò che è internet e social network. Senta, direttore, sì. Che cos'è? Scusi, voleva commentare. No, anzi, preferisco rispondere a degli stimoli che non hanno gli lo stimolo che le volevo porre è questo. Forse è banale, però cosa pensa che muova veramente le persone, tante persone, tanti giovani a fare questa scelta di acquistare un biglietto per andare a vedere uno spettacolo di teatro che, se è giusto non immaginarlo come un luogo lontano e di cultura alta, però sicuramente è un luogo di fuori dei circuiti televisivi dove c'è tanta diciamo facilità di accesso o anche restando al tema degli smartphone, no? Cioè è una scelta che uno fa perché cosa si aspetta di trovare di molto diverso al teatro rispetto a quello che c'è nel resto delle... È classico dire ma che bella domanda, ma io lo dico lo stesso perché proprio qui sta il cuore, secondo me, della motivazione più profonda, cioè che cosa cercano i giovani, ma non solo i giovani. E poi, se abbiamo qualche secondo, vorrei fare una riflessione su questa distinzione artificiosa e molto strumentale fra le generazioni, che cosa cercano e che cosa noi cerchiamo nel pubblico, perché è reciproca la cosa. Cercano qualcosa che sia certamente attento al nostro presente, a quello che accade, ma che sia uno strumento critico, non di cronaca che si insegue costantemente e si contraddice costantemente, per capire i cambiamenti, per capire cosa sta succedendo. Anche qui un paradosso. Quando anni fa decidemmo di aprire a tutte le lingue del Mediterraneo facendo un festival, parlo di 13 anni fa, ci diedero dei matti, i ben pensanti, quelli che appunto... vogliono distinguere costantemente, sì, gli intelligenti dagli stupidi, ci dissero che era una cosa senza senso perché a Milano non c'è il mare, quindi perché occuparsi di Milano? Ma guardi che lo disse una persona molto colta. No, ma mi ricordo, vengo dal teatro e spero di tornarci al teatro, quindi per certo, questo per me lei è il mio direttore. Carlo, non ti preoccupare, allora, ti ci mandiamo allora, presto, Carlo. Detto con una frase, con due frasi, sì. La prima è che capiscono che possono fidarsi di una cosa, che noi non sappiamo dare delle risposte, ma sappiamo condividere delle domande. Morin è stato uno dei protagonisti del piccolo teatro nell'apertura del Mediterraneo, e non nascondo, è anche una passione non solo personale, ma l'impostazione sua. E Morin usa una frase bellissima per capire, e secondo me aiuta molto a capire perché tanta gente viene a teatro. E lui dice: bisogna guardare il mondo con gli occhi di un bambino e la responsabilità di un adulto. Io credo che il teatro faccia esattamente questo, cioè si meraviglia ogni volta dell'accadimento dal vivo, lo guarda con occhio che non è legato e subordinato né a strumentalizzazioni né alla cronaca. Pensate, quando piove non c'è problema di smog, quando non piove c'è l'emergenza. Ecco, la gente è stufa di sentire questo, no? Certo, quindi direi che la scommessa l'avete vinta avendo il 35% degli spettatori che sono sotto i 26 anni, perché lo ricordiamo, che magari qualcuno pensa che gli abbonati siano tutti dei vecchietti, e non è così. Invece non è affatto così. Ci sono due abbonati che hanno 90 anni a cui non rinuncerei per nessuna ragione al mondo che mi vengono ogni volta a complimentarsi quando lo spettacolo piace e si guardano intorno e dicono: che bello vedere tanti giovani. Bello. Allora, sono soddisfazioni. Queste sono soddisfazioni vere. Pensi, anche quando abbiamo sfidato il limite della lingua, un altro tabù. Incredibile, vero? La prosa, diversamente dalla musica, non è un linguaggio universale. A questo punto niente è impossibile per il piccolo teatro. No, ma le differenze sono costantemente nella vita quotidiana. I nostri figli che vanno a scuola e hanno un compagno di banco che ha una faccia, ha una fisionomia diversa dalla sua. Come possiamo respingere la differenza come un tabù, come una paura? E allora la nostra ideale è di passare dalla differenza della cultura alla cultura della differenza. Il teatro sta facendo questo, ci prova. E ci però è stata una scommessa incredibile quella della lingua straniera. Complimenti. Grazie al direttore Escobar, grazie per essere stato con noi. Buona domenica. 800 24 00 24, ancora uno spicchio di trasmissione per indovinare il personaggio della settimana tra poco. Allora, Filippo ci chiama da Cesenatico, buongiorno. Buongiorno, voglio fare la risposta per il personaggio. Ok, chi è il personaggio, Filippo? Il bambino con la maglietta fatta su quei sacchetti dell'immondizia, scritto 10 e messi a pennarello nero. E poi che cosa è successo? È successo che l'hanno visto tutti su internet, in modo tale che la squadra di dove gioca Messi l'hanno chiamato e gli hanno dato una mano. È questa. L'abbiamo fatta penare, ma in realtà lei è meglio di un notaio, ci ha dato tutte le informazioni incredibili, precisissime, come se fosse la nostra redazione. Bravissimo Filippo, bravissimo. Gli abbiamo chiesto di riepilogare un po' la notizia con tutti i suoi dettagli ad uso e consumo degli ascoltatori che non la conoscevano questa notizia. Adesso siamo in attesa dell'incontro tra il Barcellona e Messi e questo bambino, incontro fisico o virtuale, insomma, perché sull'identità c'era ancora qualche dubbio, adesso sembra che lo abbiano individuato. Messi aveva scritto in un tweet: lo voglio aiutare, voglio fare qualche cosa per lui e speriamo regalargli la maglia perlomeno, visto che si era costruito con un sacchetto di plastica una finta maglia di Messi. Una notizia virale, come spesso capita, che insomma, ha commosso molti. Grazie Filippo. Grazie mille. Due biglietti al catalogo della mostra di Gauguin al MUDEC di Milano. Molto bene. Allora, prima di andare su Hack Toscana, l'ultima notizia di cui vi vogliamo parlare, un'iniziativa che riguarda la mobilità, idee creative per la mobilità, vi voglio fare sentire questo Vittorio Feltri su Maria Elena Boschi, un Vittorio Feltri inedito che quasi sbrocca in questa dichiarazione d'amore nei confronti della Boschi. Non capisco che c'entri la Boschi se c'ha il padre bischero. Saranno affari del padre, lei non ha commesso nessun reato, non ha fatto niente, finora non le è stato contestato niente se non un presunto conflitto di interessi che non c'è, perché semmai l'interesse era del padre. Poi non rompetemi le scatole con la Boschi, lasciatela lì così mi lustro la vista, io sono innamorato di lei, è bello. Grandi fabbriche, inventare un sogno dentro. Vabbè, questo nella settimana nella quale c'è stata un po' di maretta attorno alle frasi del parlamentare del PD Ansaldi, che aveva criticato Giannini, conduttore di Ballarò, per avere fatto riferimento a caso Boschi, presunto conflitto di interessi tra lei e il padre. Ah, non è di questo però di cui andiamo a parlare adesso. Diamo il buongiorno e la buona domenica, così spieghiamo tutto subito, a Mirko Lalli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Scusate la voce, ma la notte è stata abbastanza lunga. Diciamo intanto dove siamo. Siamo in Toscana, stiamo parlando con il fondatore di Travel Appeal, organizzatrice di Hack Toscana, la prima hack marathon itinerante sulla mobilità sostenibile e consapevole. Vi siete mossi molto stanotte? Che è successo? Stanotte non ci siamo mossi. Allora, intanto, Travel Appeal si occupa di turismo e abbiamo accettato di organizzare questa maratona, questo hackathon, sulla mobilità, su richiesta della Regione Toscana, proprio perché non ci può essere turismo se non ci muoviamo, se non c'è mobilità, se non, non possiamo viaggiare. Ecco, che cos'è un hackathon, Mirko, intanto, giusto per così spiegare il significato di questa parola? Allora, un hackathon è una maratona. L'etimologia di hackathon è hacker marathon. Hacker nel senso originario del termine, non nel senso cattivo, cioè un hacker è colui che smonta e rimonta qualcosa per farlo funzionare anche in maniera differente da come era stata pensata. Abbiamo messo assieme circa 200 persone a ragionare su concetti legati alla mobilità, la mobilità per i turisti, la mobilità per i cittadini, la mobilità per i pendolari, che è un punto dolentissimo. Ai, quanti pendolari ci ascoltano a Radio 24 e insomma, ogni volta che sono chiamati in ballo hanno delle storie incredibili da raccontare. C'è qualche cosa, Mirko, qualche idea particolare che può essere estrapolata da questo hackathon e ci puoi raccontare, oppure bisogna andare a studiarsi tutto sul sito? No, assolutamente, siamo partiti da Firenze, abbiamo iniziato la presentazione delle idee a Firenze, poi siamo venuti in treno. Ovviamente grazie a Trenitalia, partita puntualissima per arrivare ad Arezzo, almeno abbiamo questa volta. Abbiamo passato tutta la notte a lavorare dentro l'Università di Siena, la sede di Arezzo dell'Università di Siena, e adesso tra pochi minuti riprendiamo il treno e torniamo a Firenze per fare la presentazione finale e la premiazione. Importante, i tre progetti che vinceranno avranno un premio di 5.000 euro. Non ci puoi ciascuno. Anticipare nulla di questi progetti? No, non vi posso dire chi ha vinto perché ancora non lo so, certo. La giuria ne parlerà in treno. Beh, poi questo adesso... è giusto, non è che ce lo puoi dire così. Ma io speravo una piccola anticipazione. Adesso però vi posso dire quali sono i progetti, qualcosa di interessante. Ad esempio, una cosa che mi ha colpito è un progetto legato alla mobilità, all'accessibilità, quindi alla mobilità per i disabili, per le persone che hanno alcune difficoltà o di mobilità, appunto, e ai ragazzi, un team ha pensato a delle soluzioni per in qualche modo recensire le tratte, i mezzi di trasporto e avere dei feedback da altri disabili. A volte anche se una tratta, un mezzo di trasporto viene classificato come accessibile, spesso non lo è. E visto che ormai ci affidiamo alla reputazione online, alle recensioni per scegliere dal ristorante all'hotel, perché anche non affidarci a questo mezzo crowdsourced, quindi che proviene da una folla di persone, anche per scegliere ad esempio quali sono le tratte più sostenibili per chi ha problemi di mobilità. Questa è una cosa importantissima e siamo felici che ve ne siate occupati. Grazie a Mirko Lalli, non c'è tempo per fare altri esempi di idee creative per la mobilità, ma anche insomma... perché andiamo a casa a studiare la pronuncia di crowdsourced. Basta che andate su internet, trovate tutto per quanto riguarda Hack Toscana, l'hackathon sulla mobilità sostenibile. Noi ci fermiamo qua, ci salutiamo, ci ritroviamo sabato prossimo. Un ringraziamento ad Andrea Piana, che ha scritto insieme a noi il programma, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Carmelo Lauricella in regia. Buona domenica anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Ciao.